30 principales. Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 principales. Movistar y El Corte Inglés te traen lo mejor del Festival de San Remo 2021 en los 40 principales. Senza nome io, senza nome tu. E parlare finché un nome non ci serve più. Senza fretta io, senza fretta tu. Ci sfioriamo delicatamente per capirci un po' di più. Siamo come due stelle scampate al mattino. Se mi resti vicino non ci spegne nessuno. Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale. Ti ho presa sulle spalle e ti ho sentita volare. Con le mani nel fango per cercare il destino. Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro. E mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente. Ed ho un milione di cose da dirti, ma non dico niente. Ma non dico niente. Il tuo viaggio io, la mia stazione tu. E scoprire che volersi bene è più difficile che amarsi un po' di più. È la mia mano che stringi, niente paura. E se non riesco ad alzarti sarò con te per terra. Avrò il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale. Ce li faremo bastare. Ce li faremo bastare. Tuo respiro e mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente. Ho un milione di cose da dirti, solo un milione di cose da dirti. Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale. Senza dirlo a nessuno impareremo a volare. Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente. Ed ho un milione di cose da dirti, ma non dico niente. Ma non dico niente. Cuore a sonagli io, occhi a fanale tu. Lo mejor del Festival de San Remo 2021 en los 40 principales. Mi dici che non funziona più, siamo soli adesso noi, sopra un pianeta blu. E quando arriva sera, invadi la mia sfera, non è la primavera che non sento da un po'. Non sento da un po'. I brividi sulla mia pelle, il tuo nome fra le stelle. Sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Parla con me, ma forse fatto che ora non prendi più l'abitudine di fare sempre come vuoi tu. E quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la primavera. Sembra ieri, sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, parla. Dentro diamo e fuori tremo, come in crisine di notte. Dietro di noi vedo giorni spesi su treni infiniti. Forse è solo che mi manca parte di un passato lontano come Marte. Tu cosa dirai vedendomi arrivare quando ti raggiungerò? Ricordo ancora quella sera, code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che son qui che tremo, parla, parla, parla, parla con me. Ma forse ho solo dato tutto per scontato e mi ripeto che scema non sa per fingere. Dentro ti amo e fuori tremo, come glitchi neri notte. Ora che non posso più tornare a quando ero bambina ed ero salva da ogni mare. E da te, da te, da te. Estás escuchando lo mejor del Festival de Sanremo 2021 aquí. En los 40 principales. Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quello che hai perso. E va bene una volta su 100. Se ci pensi precipiti, non ho tempo deciditi. A fine lavoro ti penso, ho cenato col vino sul letto. E non deve andare così, non fanno l'amore nei film. E forse non ritorno in me, ma niente panico. Guarda come piove forte questo sabato. Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa. Ma non è così amara, questa notte si impara. E sta piovendo e sono fuori da me. E questa casa non ha niente di te. Ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada. Tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora 10 ultime volte. 10 ultime volte. Vestiti fuori posto, addormentati in un parcheggio. Baci francesi delivery, le scenate nell'appartamento. Merito caffè latte corretto. E mi piace se esageri, non ho tempo deciditi. Io però non ti aspetto, mi ricordi di un libro che ho letto. E non deve andare così, non fanno l'amore nei film. E forse non ritorno in me, ma niente panico. Guarda come piove forte questo sabato. Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa. Ma non è così amara, questa notte si impara. E sta piovendo e sono fuori da me. E questa casa non ha niente di te. Ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada. Tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora 10 ultime. Quello che ho perso di quella volta su 100. Non ritorno in me, ma niente panico. Guarda come piove forte questo sabato. Perché l'ultima volta è sacra, fa freddo tornare a casa. Ma non è così amara, questa notte si impara. E sta piovendo sono fuori da me. E questa casa non ha niente di te. Ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada. Tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora 10 ultime volte. 10 ultime volte. 10. Lo mejor del Festival de Sanremo 2021 en los 40 principales. Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte. Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob. In base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto, se azzecchi il balletto e fai il boom su TikTok. Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'aria. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'aria. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'aria. Non ti servono i programmi se il tuo senso ce l'hai. Apriamo gli stadi ma non sanno che questo è il trend. Tutti che vendono il culo un brand. Tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash. Pompano il trash in nome dell'all e poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti i coglioni. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni. Le brutte intenzioni. Che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro patriarcato. Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Non so se mi piego, non so se mi spezzo. Non so se mi spiego, dipende dal prezzo. Lo chiami futuro ma è solo progresso. Sembra medioevo, più smart e più fashion. Spero che il fine giustifica il mezzo. Non dico il buon gusto ma almeno il buon senso. Ho visto di meglio, ho fatto di peggio. Ehi, tu di un'altra palla se riesco a palleggio. Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'aria. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'aria. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'aria. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'aria. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Estás escuchando lo mejor del Festival de Sanremo 2021 aquí en los 40 principales. Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, leggera.

Estás escuchando lo mejor del Festival de San Remo 2021, aquí. En los 40 principales. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na na na na na na. Diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos con monotonía por causa del trabajo y otras tonterías te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí con los amigos te verás tratando solo de olvidar. No es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así la vida de los dos. Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión. La soledad entre los dos, ese silencio en mi interior, esa inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor. Mejor del Festival de San Remo 2021 en los 40 principales. Dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi ora non mi va. Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani. Io ti voglio bene, questo non lo so. Stupido testone, dubbi non ne ho. Anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio innamorarmi. amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia. Se il tuo amore non valgo, non amarmi ma non mandarmi via. Piovono parole su questa città, se la gente vuole, ma quanto male fa? Noi ci alziamo in volo e loro sono fermi, solo in mezzo a questo cielo. Non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi. Ho sbagliato, voglio dire non amarmi. Non spezzare le mie armi e il mio cuore con questi non amarmi. Non amarmi per il rosso della rabbia che c'è in noi. Tu lo sai che non posso non amarti, nemmeno se non vuoi. Non amarmi ti farò. Estás escuchando lo mejor del Festival de San Remo 2021, aquí. En los 40 principales. Tu poder empieza en tu propio cuerpo. Festéjalo y disfrútalo. Eroticfeel.com y Satisfyer se unen a la celebración del Día Mundial de la Mujer con un solo objetivo: visibilizar la sexualidad de quienes la han tenido que esconder durante siglos. Súmate junto al hashtag ChooseToChange y comparte tu reflexión en eroticfeel.com o Satisfyer.com. Visítanos en nuestras redes sociales en Eroticfeel o Satisfyer. De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos. Seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen. Artistas del bricolaje, fashionistas, este aniversario de AliExpress queremos dedicároslo con grandes ofertas en todas las grandes marcas para que podáis disfrutar de lo que os apasiona sin dejaros una pasta. Destornilladores eléctricos, estuches de maquillaje para triunfar con cada look. Dad rienda suelta a lo que os apasiona. Este aniversario, descuentos de hasta un 70% del 29 de marzo al 2 de abril. Si te lo imaginas, está en AliExpress. Nuestros tecnoprecios son muy eficientes, tan eficientes como las nuevas lavadoras Haier, con un motor silencioso y de bajo consumo. Y con programas de vapor y tecnología antibacterias. Además, hasta el 6 de abril, por la compra de una lavadora iPro Series 7, te llevas una tarjeta regalo de hasta 150 euros. Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. Consulta condiciones. Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el chuletón y añojo calidad y origen Carrefour por solo 9,90 euros al kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía, por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirle, lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos. La sencillez de lo sencillo, de las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa batalla que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé. Amor, ya lo verás a la salida que hoy no ves. Cuando te recomen los silencios, el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Es la voluntad que a todo desafía, es nuestra dignidad, la fuerza de la vida que no preguntará qué es la eternidad, aunque sepa que la ofenden o que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé. No te dejará marchar, no te dejarás de fe. Hasta dentro de la cárcel de esta enorme hipocresía y en los fríos hospitales desde el mal de nuestros días, una fuerza te vigila, tú la reconocerás. Es la fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va de ti. Más allá de mi vida, siempre por nosotros luchará y no nos dejará. La fuerza dentro de ti la tienes que presentir y ahí estará. Lo mejor del Festival de Sanremo 2021 en los 40 principales. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America. Guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni e stare amici di tutti. Siamo ragazzi di oggi, anime nella città, entro i cinema vuoti, seduti in qualche bar, e camminiamo da soli, nella notte più scura, anche se il domani ci fa un po' paura, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà. Immaginiamo un mondo meno duro, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà. Estás escuchando lo mejor del Festival de Sanremo 2021, aquí. En los 40 principales. Mm-hmm.

nacer. No me resigno a estar así. Por eso yo que te amo vivo implorando, ayúdame y te destruiré. Cinco días sin tenerte, cuántas lágrimas perdidas, y yo enclavado a ti. He probado a despreciarte, traicionarte, hacerme daño. Porque en tu mar voy naufragando y no sé, no sé si conviene estar nadando o es mejor dejarse ir al fondo. Me dirás quién te perdonará por olvidarte ayer, que no es un juego. Cuando bastaba un beso nada más, hablándonos. Estás escuchando lo mejor del Festival de San Remo 2021, aquí. En los 40 principales. Ogni volta che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza, come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza. Come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi. Io corro e poi corro e piango e poi piango. Amare senza avere tanto, urlare dopo avere pianto, parlare senza dire niente, come il sole mi consolerà. volte che stai male. Lo mejor del Festival de Sanremo 2021 en los 40 principales. Non è mai tardi. Non è mai detto che tutto sia fermo e immobile. Già scritto. Forse c'è una possibilità che desideri e puoi scegliere, ti fa muovere senza spingere, e ti piace, e ti piace, e ti piace, sì, ti piace così e ti piace com'è. Necessità di sorprenderti, di decidere cosa prendere, quando smettere, e ti piace, e ti piace, e ti piace, sì, ti piace così e ti piace com'è. Ci come estás escuchando lo mejor del Festival de Sanremo 2021 aquí en los 40 principales. Cuando giri intorno a me, sai, non mi sembra vero, e forse non lo sei. Forse la testa mia, ogni sorriso ricordo, sai, quanti sogni nel cassetto che a volte lasciamo alle spalle. Non lasciamo la vita di sempre per paura di restare da soli. Quando giri intorno a me, sai, non mi sembra vero, e forse non lo sei. Forse la testa mia

mejor del Festival de San Remo 2021 en los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. De todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Que no dejaría. Cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. También estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza. Lo mejor del Festival de Sanremo 2021 e los 40 principales. Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lungomare, nuotare fino a non toccare, l'ansia di non fare in tempo coi regali di Natale, lo sguardo di mia madre quando pensavo che questa volta non ce la potessi fare. Le partite sulla strada, fare i balli con la maglia, restare accanto a chi non ce l'ha fatta, le prime cicatrici, gli amori mai finiti, le nottate a casa sole, ubriachi con gli amici, per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. E portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. Non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lungomare, nuotare fino a non toccare, l'ansia di non fare in tempo coi regali di Natale, lo sguardo di mia madre quando pensavo che questa volta non ce la potessi fare. Le partite sulla strada, fare i balli con la maglia, restare accanto a chi non ce l'ha fatta, le prime cicatrici, gli amori mai finiti, le nottate a casa soli, ubriachi con gli amici, le corse di mia madre per fare in tempo a scuola, sognare ad occhi aperti, l'estate senza soldi, l'ansia degli esami, ma che festa il giorno dopo, la faccia di mio padre quando andava al lavoro, le volte in cui pensiamo che andrà tutto male, i viaggi con chi ami, sì, ma i sogni a buttare, le prime delusioni perché i baci finiscono, le nottate a casa con gli amici a dire resteremo unite, poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare. Lo mejor del Festival de Sanremo 2021 e los 40 principales. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so, io che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Non lo so, io che destino. Vita davanti a sé. Nessuno ci crede, ma io sì. Estás escuchando lo mejor del Festival de Sanremo 2021 aquí. Los 40 principales. Nata ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai, e ci sei. Sempre più soli, a questa età non sai, no, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai.

scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione. Ci vediamo poi per pranzo. Non vedo l'ora di parlarti per ritornare a respirare. Mejor del Festival de Sanremo 2021 en los 40 principales. Dici sono una grande stronza che non ci sa fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai cosa per me è il vero dolore. Confondere il tuo ridere per vero amore. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente. Come un punto tra la gente. Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sembrerò piccola, non sarò la tua Andromeda, Andromeda. Forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda, quella di sentirsi un po' sbagliati. Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore la solita canzone di Nina Simone. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente. Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. Mio marito, mio marito, no. Me ne vado a Parì, però ti prego giurami, tu giurami che non. Mi direi mon ami, ti prego. Ah.

Los 40 principales. Son las 4, las 3 en Canarias. Los 40 principales. Ahora más de 40 minutos de los mejores discos. Sin interrupciones. Los 40 principales. Thank you. way.